1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali. Allora, cari ascoltatori, parleremo poi di tasse, di quello che è successo, il provvedimento che ha portato, porterà al rinvio dell'aumento dell'IVA almeno fino all'autunno, in cambio di... Il Premier Letta dice non nuove tasse, chi dice che ha aumentato le tasse mente. Molti invece pensano che le tasse ci siano in più, per esempio sono aumentati gli acconti IRPEF, IRAP, IRES, e poi ci sono le tasse sulle sigarette elettroniche. Comunque ne parleremo con il sottosegretario all'economia Giorgetti, Alberto Giorgetti, nostro ospite alle 8:15. Poi avremo Leonardo Facco, che è quello del movimento libertario, no alle tasse. Ci sarà con noi anche il rappresentante dei produttori delle sigarette elettroniche, perché è uno dei provvedimenti che ha fatto più discutere, ma come, proprio sulla sigaretta elettronica che molti hanno iniziato a utilizzare per abbandonare la sigaretta tradizionale, quella che fa male, e il dato di fatto è così, più tasse. Ne parleremo appunto più avanti con gli ospiti, ora andiamo a leggere i giornali che trovate in edicola. È venerdì 28 giugno, i titoli, il Sole 24 Ore apre: nel 2013 PIL in calo dell'1,9% e il fisco batte ogni record. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, fisco 1,6 milioni di controlli. Repubblica, giustizia, il PDL tenta il blitz. Per la Stampa, ecco il piano taglia tasse. Libero, il prezzo dell'incertezza, quanto ci costa Letta. Per il Giornale c'è l'intervento di Brunetta, incapaci al governo. Il Fatto Quotidiano invece è sempre la giustizia di Berlusconi, parla De Gregorio, Verdini comprò deputati nel 2010. L'Unità, le vergogne di Berlusconi, De Gregorio, lodo Mondadori, il blitz sulla giustizia. Per il Messaggero, evasione stretta sui controlli. Mentre il Manifesto mette il titolo su il Consiglio europeo, cavoletti di Bruxelles, 6 miliardi in 7 anni per 27 paesi. Il titolo di Avvenire invece è dedicato a Camorra, slot, un maxi blitz svela nuovo grande business per i clan, l'azzardo vale quasi come la droga. Allora, io però voglio partire da due articoli che ho trovato sul Sole 24 Ore e il Messaggero, che riguardano la riforma elettorale. Io gioco un po' su questo, gioco, tengo il conto sul mio profilo Twitter, che vi invito a seguire se volete, Alino Milan. Siamo alla chiusura oggi della 8ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Settimana prossima, chissà, magari sarà quella davvero decisiva, la 9ª. E i saggi che fanno? I saggi, quelli che si riuniscono il lunedì, hanno escogitato un nuovo sistema. Attenzione, udite, cari ascoltatori, perché siete abituati a avere a che fare con il Porcellum. Il Porcellum è quello attuale di sistema elettorale, che vogliono cambiare, qualcuno vuole si torni al Mattarellum. Ma ora spunta un nuovo appellativo per la nuova riforma. Dal Porcellum al Kangurum, questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 16, dice: ma come il Kangurum? Sì, perché ora si guarda con attenzione al modello di riforma elettorale australiano. E voi non lo sapete che cos'è? Neanch'io, state tranquilli. Comunque, Emilia Patta sul Sole 24 Ore: c'è già chi ribattezza questo sistema Kangurum, si guarda al modello del sistema elettorale uninominale a ballottaggio preventivo utilizzato in Australia. Si tratta di un sistema che Luigi Einaudi già propose nel 1953 al posto della cosiddetta legge truffa, quindi abbiamo scomodato anche i grandi patri della patria. Luigi Einaudi lo propose nel 1953, ora torna di estrema attualità nel 2013, se ne parla in tutti i bar di Milano, questa mattina l'ho confermato, lo posso confermare. È il metodo con cui si elegge attualmente il sindaco di Londra. Il sistema prevede questo, attenzione, ecco la spiegazione. nei collegi uninominali un secondo voto che può sommarsi al primo voto nel caso in cui con il primo voto nessun candidato raggiunga la maggioranza dei suffragi necessaria per essere eletti. In sostanza il voto è singolo ma trasferibile. Si trasferisce cioè l'intenzione di voto dell'elettore da un certo candidato a un altro ritenuto più vicino o meno lontano qualora il prescelto con il primo voto non abbia possibilità di vincere. Per questo si tratta di un vero e proprio ballottaggio preventivo o di un doppio turno in un turno solo. Avete capito? No? Neanch'io, ma c'è tempo per studiare. Legge elettorale, ecco il modello australiano. Ballottaggio preventivo anche sul Messaggero. Forse non l'hanno capito neanche i saggi, ma loro sono sicuramente più saggi. Poi ci sono gli scribi e a supporto. E riusciranno certamente a mettere in piedi qualcosa da spiegare anche a tutti noi. Secondo il professor Massimo Teodori, risolverebbe molti dei problemi. Il modello australiano, anche sul Messaggero, spiegato così. Una sorta di doppio turno o ballottaggio preventivo, poiché in caso di mancato raggiungimento del quorum del 50% più uno da parte di un candidato, si potranno assegnare le seconde, terze o eccetera preferenze dei concorrenti meno votati fino a far raggiungere a uno degli altri candidati dello stesso collegio la maggioranza assoluta. Non è chiarissimo neanche così, ma capisco che alle 7:30 del mattino non è facile digerire la riforma elettorale. Comunque arriva forse il kangurum dopo il porcellum. Lasciamo la politica, vi voglio citare questo pezzo di Francesco Merlo, con la sua penna sempre sopraffina, racconta in Italia di quello che è successo un po' nel silenzio generale. Ieri è stata abrogata una norma, nei giorni scorsi, che era stata introdotta 12 anni fa con l'obiettivo di adottare un linguaggio chiaro e comprensibile quando i cittadini si rivolgono alle istituzioni, cioè eliminare quel burocratese odioso, incomprensibile, che serve solo a alimentare dei dubbi, incertezze. Ebbene, è stata abrogata questa norma, per cui ora non c'è più il dovere da parte degli uffici della pubblica amministrazione di parlare in modo chiaro e comprensibile. Torna insomma il burocratese. E allora Francesco Merlo, in prima pagina di Repubblica, la rivincita del burocratese, scrive: hanno abolito l'obbligo della chiarezza e dunque uno sfrattato non può più protestare quando lo chiamano cittadino passivo di provvedimenti esecutivi di rilascio. Ma forse è l'ora di reagire, darebbe certamente il via alla rivolta linguistica a quel cameriere di bar che segnasse l'ordinazione dell'ex ministro Patroni Griffi usando il burocratese che gli piace tanto e che consiste nello scrivere caffè senza mai chiamarlo caffè, ma altresì assumendo che il liquido in oggetto non sia da iniettare e tenendo conto che trattasi di connubio tra acqua e piccoli semi tropicali. Conosco una signora, scrive Merlo, che ha due codici fiscali, le hanno chiesto la cerzioriazione per stabilire la anteriorità al fallimento di formazione del documento di garanzia e ovviamente con riferimento al diritto ex adverso azionato. Ebbene, i funzionari che non le hanno spiegato come uscire dalla doppia identità da due giorni non violano più il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, perché dopo 12 anni è stata cancellata la norma che li obbligava ad adottare un linguaggio chiaro e comprensibile. Non che mai siano stati chiari e comprensibili, ma c'è una grande differenza tra una norma disattesa e una norma cancellata che diventa oggettivamente, si diceva una volta, un incoraggiamento all'oscurità e all'incomprensibilità. Insomma, c'è anche un elenco di tutti arcaismi, burocraticismi che possono rinascere, no? Scrive Repubblica all'interno di pagina 27 nel pezzo di supporto a Francesco Merlo. Non si dice problema, ma problematica. Non si dice timbrare, ma obliterare. O non c'è l'impedimento, ma la condizione ostativa. Non si dice interrogare adesso nella burocrazia, ma si può tornare a dire procedere alla escussione. Oppure non realizzare, ma porre in essere. E ancora, le negazioni non dicono mai il progetto è stato escluso dal finanziamento, ma il progetto non è stato ammesso al finanziamento. E ancora, non dicono banalmente si deve esprimere, ma non si può non esprimere, le doppie negazioni. Insomma, trionfa il burocratese. Ora lo cerco su Google, cerzioriazione. Lo cerco in questa pausa pubblicitaria, ci sentiamo tra 5 minuti. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccolo, eccolo. Allora ci scrive un ascoltatore, Beppe, che una volta Lina il ha scritto che stava valutando il determinismo di un incidente. Sì. Cos'è il determinismo, la filosofia, il determinismo di un incidente? Vabbè, è la burocrazia, il trionfo della burocrazia, che è la burocrazia poi, il burocratese o meglio in questo caso, che è il linguaggio della burocrazia. Allora, ieri Consiglio europeo, si parlava di lavoro, l'intesa è arrivata credo nella notte, insomma l'una, abbiamo sentito l'una e mezza nel nostro giornale radio, dopo che per tutta la giornata è successo che il premier britannico Cameron ha fatto valere la sua forza politica per bloccare un'intesa che sembrava raggiunta. Tutti i dettagli sono spiegati da Beda Romano a pagina 5 del Sole 24 Ore sul lavoro, intesa europea, ostaggio di Londra. I 27 dovevano ieri sera dare il benestare a una serie di misure per lottare contro la disoccupazione giovanile e rifinanziare le piccole imprese. E cosa è successo, racconta Beda Romano. Lo spiega molto bene. In pratica Cameron, e si ricollega con quello di cui parlavamo ieri mattina, proprio questi microfoni nella rassegna stampa, Cameron ha messo a punto una nuova riforma con tagli alla spesa pubblica in Gran Bretagna di 11,5 miliardi di sterline, circa 13 miliardi e mezzo di euro. E allora ha detto proprio questo: di fronte all'Italia e agli altri paesi che chiedevano un anticipo dei fondi del cosiddetto Youth Guarantee, cioè i fondi per sostenere l'occupazione dei giovani, ha detto Cameron: ma no, io ho tagliato la spesa pubblica, perché dobbiamo fare questo cambiamento del Youth Guarantee? Fate come me, tagliate la spesa pubblica. In realtà era un braccio di ferro che Cameron voleva fare perché voleva degli sconti sull'agricoltura. Alla fine il braccio di ferro si è concluso, tutti più o meno soddisfatti, Cameron ha ottenuto quello che ha ottenuto, quello che voleva ottenere, anche l'Italia ha ottenuto più o meno quello che voleva ottenere, e vabbè, si fanno così anche le battaglie a livello economico in Consiglio europeo. Insomma, Cameron al suo arrivo al Consiglio, scrive Beda Romano, aveva definito essenziale il rispetto dell'accordo di febbraio, sottolineando che quello di cui si deve occupare questo Consiglio è fare a Bruxelles come stiamo facendo in Gran Bretagna, riportare la spesa sotto controllo, vivere con i propri mezzi, diventando più competitivi, rendendo più facile per le imprese creare lavoro. Non è che non si riesca a sottoscrivere questa cosa di Cameron, obiettivamente. Poi bisogna essere partigiani e italiani, va bene, ma in realtà non ha tutti i torti Cameron. Lui ha detto: io la spesa pubblica l'ho tagliata, fate come me. Poi alla fine l'accordo è arrivato. Ho letta, come scrive il Corriere, visto che si parla molto anche in Italia sulla questione IVA, le coperture, ne parleremo anche noi alle 8:15, Letta dice: io non ho aumentato le tasse. Proprio ieri arrivando al Consiglio europeo, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 3, Marco Galluzzo: non si devono sfasciare i bilanci, io ho il dovere di proteggere il paese, i nostri risparmiatori, se il Parlamento trova altre coperture entro il limite del 3% va benissimo, cioè rispetto a quelle previste dal decreto. Detto questo, chi ci accusa di aver alzato le tasse dice il falso. Così il premier Enrico Letta. In realtà Libero attacca, Letta dice balle sull'IVA, le tasse sono aumentate. Per esempio i bolli da 1,81 a 2 euro, da 14,62 a 16 euro, e di questo abbiamo avuto anche due testimonianze nella segreteria telefonica. Oppure insomma la tassa sulla sigaretta elettronica, sembra abbastanza chiaro. Gli atti di notorietà, le pubblicazioni di matrimonio, il bollo di 16 euro per ogni foglio, le scritture private con le quali si creano, si modificano, si documentano rapporti giuridici di ogni specie, un bollo da 16 euro per ogni foglio, fatture, note, conti, simili documenti, bollo di 2 euro per ogni esemplare. Questi sono alcuni dei balzelli, per esempio, che Libero mette a pagina 5 per dire: ecco come non è aumentato le tasse, queste cosa sono. E tra l'altro non è finita, racconta il Corriere della Sera a pagina 5. Ora il Tesoro cerca 11 miliardi per ottobre con l'effetto pagamenti e meno sgravi. L'effetto pagamenti sono l'aumento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e meno sgravi. 11 miliardi di euro. Anche La Stampa con Paolo Russo a pagina 4, ecco il piano d'autunno per recuperare 11 miliardi. E dire che tutti guardano alla spesa pubblica e dire ma come mai non si riesce a tagliare la spesa pubblica? Oggi sempre Libero mette, credo, il totale della spesa pubblica 805 miliardi di euro l'anno, e Sergio Rizzo in prima pagina del Corriere della Sera firma l'editoriale spendere meno non è proibito, come ha fatto Cameron appunto in Gran Bretagna, facendolo poi pesare al Consiglio Europeo, aggiungo io giustamente. Scrive Sergio Rizzo sulla spesa pubblica: non serve una laurea per capire che la decisione di coprire il rinvio dell'aumento dell'IVA anticipando il pagamento delle tasse su redditi non ancora maturati causerà un problema nei conti pubblici a giugno del prossimo anno, quando i contribuenti avrebbero dovuto saldare il 100% delle imposte dovute e non invece il 110% che verrà richiesto loro 7 mesi prima della scadenza a novembre. Richiesta per giunta beffarda, perché il peso di una tassa destinata a colpire chi consuma graverà indistintamente su tutti. Ma davvero non si può tagliare? I famosi prezzi standard del servizio sanitario, ricordate, nessuno ne parla più, così come la concentrazione degli acquisti pubblici che potrebbe far risparmiare 30 miliardi l'anno è vanificata, rimarca la Corte dei Conti, dalla polverizzazione allucinante delle stazioni appaltanti, oltre 23.000. Neppure la revisione della spesa avviata nel 2007 da Padoa-Schioppa, ripresa da Monti nel 2012, ha dato esiti concreti. Magra consolazione la miglior conoscenza dei 1000 meccanismi di uso inefficiente, quando non di sperpero, del nostro denaro. Le alternative dunque non mancavano, così Sergio Rizzo in prima del Corriere della Sera. Intanto le coperture dell'IVA, come racconta Marco Rogari sul Sole 24 Ore a pagina 9, come vengono? Beh, le coperture per il differimento dell'aumento dell'IVA: 176 milioni dall'incremento di un punto dell'acconto IRPEF, 281 milioni da un incremento di un punto dell'acconto IRES, 198 milioni dall'incremento di un punto di acconto IRAP, 209 milioni dall'incremento di 10 punti percentuali degli acconti ritenute sugli interessi per depositi e conti correnti bancari, 195 milioni, eccolo lì, per riduzioni della spesa. O una piccola parte, per un totale di 1 miliardo 59 milioni, un'operazione che è quella messa in moto per rinviare i 3 mesi l'aumento dell'IVA, ma la copertura che per la grande percentuale arriva dall'aumento degli acconti. Non sono tasse, dice Letta, poi però ci sono le tasse sulla sigaretta elettronica, i bolli, eccetera. In tutto questo la situazione economica è, ieri ha detto il Centro Studi Confindustria, diciamo a livello, forse si spera di aver toccato il fondo, ecco, perché quando si tocca il fondo poi si spera di risalire. PIL a meno 1,9%, fisco record al 53,5%, questi dati che trovate nel titolo a pagina 2, Rossella Bocciarelli proprio parte nell'articolo da questa domanda: la crisi ha finalmente trovato il suo pavimento? Il Centro Studi Confindustria ritiene di sì, e sul finire del sesto anno di vacche magre mette in evidenza gli indizi di una possibile prossima risalita. Nel frattempo però le stime per l'anno in corso vengono riviste al ribasso, mentre in precedenza si parlava di una flessione del PIL dell'1,1% con ripresa intorno allo 0,6% l'anno prossimo, la nuova stima mostra una flessione dell'attività produttiva dell'1,9% e una risalita più modesta, 0,5% del PIL nel 2014. Questi i dati. Ci sono i simboli anche a volte che contano. Simboli magari per qualcuno dice piccoli o grandi. C'è una pasticceria storica, il Caffè Cova a Milano, storica perché creata nel 1817, e quindi una pasticceria che è proprio la storia di Milano, che è passata ai francesi di Louis Vuitton. La famiglia Faccioli resta nella società, ma il Caffè Cova va ai francesi. Così lo trovate sul Sole, sempre a pagina 37, la storica pasticceria milanese Cova, piccolo fiore all'occhiello della città del Made in Italy, passa di mano. Cifra investita ben superiore ai 15 milioni. Non ci sono ovviamente dettagli per il momento ulteriori sui dati finanziari dell'operazione. L'indiscrezione parlano di cifra superiore ai 15 milioni di euro, ma insomma anche questo vuol dire un piccolo grande simbolo di un Made in Italy che passa al di là del confine. E la politica intanto si arrabatta su che? Su che? Sulla giustizia, da 20 anni, dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, continuano i messaggi straordinari. Alcuni dei nostri ascoltatori che mi scrivono degli episodi di burocratese nei quali sono dovuti incappare. Maurizio da Sassari ci scrive un SMS: per farmi pagare un passo carrabile non richiesto, l'ente riscossore ha citato la fattispecie della dicatio ad patriam. No, vabbè, ma... oppure c'è chi ci scrive: vabbè, ma allora mandiamo noi all'ufficio della pubblica amministrazione un documento in cui, con documenti inesistenti, così sclerano, anzi no, perdono temporaneamente la facoltà cognitiva psicologica cerebrale con decadenza permanente sulla zona temporale del lobo sinistro frontale. Beh, insomma, grazie cari ascoltatori, perché mi fate strappare anche un sorriso su quella cosa. No, mi chiedono la cerzioriazione. No, non l'ho trovata su Google, effettivamente. L'ho citata prima, l'ho trovata solo nell'articolo di Francesco Merlo. Vabbè, il burocratese, moriremo di burocratese. Intanto la politica è presto riassunta. Leggete un qualsiasi articolo degli ultimi 20 anni e leggete il giornale di oggi, cambiate la data e questo è: si litiga sulla giustizia. Il problema è sempre dopo le sentenze Berlusconi. Allora l'accusa è da parte del centro-sinistra: il centrodestra tenta un blitz nel disegno di legge costituzionale che doveva tenere fuori la giustizia, secondo il centro-sinistra. Allora adesso c'è una proposta di Donato Bruno, che abbiamo sentito nel giornale radio, di cambiare anche tutta la questione costituzionale riguardante la giustizia. Da sinistra attacca: è un blitz dopo le sentenze di Berlusconi. Da destra dicono: no, non è vero, non è un blitz. Ecco, riassunta la giornata politica di ieri è questa. C'è anche la questione della Cassazione, che ha aperto il procedimento per il risarcimento CIR, cioè la maxi sentenza. Berlusconi deve 564 milioni a De Benedetti. La sentenza viene giudicata giusta in principio, ma la Cassazione prevede uno sconto, una riduzione che andrà quantificata di quanto Berlusconi deve a De Benedetti. Certo, nel retroscena si parla di questa cosa, la giustizia, sempre stesse cose. Francesco Belli, Anna Milella su Repubblica, il cavaliere pronto a giocare l'ultima carta, Enrico non può fare finta di niente sulla giustizia. C'è anche chi racconta il Corriere, Verdini, punta a convincere Berlusconi ad andare alle urne a ottobre. Questo è il titolo proprio di un articolo che trovate a pagina 11. Francesco Verderami: Verdini, pressing sul cavaliere, urne a ottobre, il coordinatore del PDL, la pacificazione è una favola, così la sinistra ti sbrana. Sarebbero i cosiddetti falchi del Popolo della Libertà che cercano di convincere Berlusconi a capire che così non si va avanti. Poi c'è De Gregorio, c'è il nuovo procedimento a Napoli, l'udienza preliminare in cui si deve decidere se rinviare giudizio Berlusconi per la vicenda della presunta compravendita del senatore De Gregorio e di altri senatori, così almeno dice De Gregorio stesso in una serie di interviste. Oggi a Repubblica, pagina 6, al Fatto Quotidiano, a pagina 2, ho sognato mio padre e ho deciso di parlare. Così De Gregorio motiva il perché ha iniziato ad attaccare e a svuotare il sacco. Ieri ha chiesto di essere condannato davanti al tribunale, dicendo: Berlusconi si è affidato alla vitola. La mia non è spirito di vendetta nei confronti di Berlusconi, lo so che può sembrare strano, ma certi sentimenti non mi appartengono più, nessuna vendetta davvero. Ho rinunciato a candidarmi quando Denis Verdini, ancora il 19 dicembre scorso, mi ripeteva: vieni in Senato, ci difenderemo tutti insieme dai magistrati comunisti e governeremo la giunta per le immunità. E lei come gli ha risposto? Non ci credo più, gli ho detto, sono stanco, non voglio uscire dal Senato con le manette. Così a Repubblica, ma anche al Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, parla parla De Gregorio. Oh, invece c'è un riavvicinamento Tremonti-Berlusconi, notiziona sul Corriere della Sera, pagina 10. Faccia a faccia ad Arcore, ritorna al sereno tra l'ex premier e Tremonti. Lorenzo Fuccaro racconta, dopo il periodo di gelo che risaliva all'autunno del 2011, i due si sono rivisti e hanno superato le reciproche incomprensioni. Sono Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti che si sono incontrati in un paio di occasioni, una prima volta a Roma, da scorsa settimana davanti a una folla di persone, e la seconda volta domenica alcune ore in Villa San Martino ad Arcore da Berlusconi. Una notizia che Tremonti conferma: è vero, ho visto Berlusconi, ma non è mio costume riferire ciò che si dice in incontri privati. Vabbè, questa è la politica. C'è da notare, prima tra poco c'è il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato oggi, ma prima una notizia che viene data da Il Giornale e da La Stampa. Cosa è successo al braccio destro del sindaco di Milano Giuliano Pisapia, Paolo Limonta, che è un professore, ha curato molto la campagna elettorale, è anche un consigliere di Giuliano Pisapia. Voleva andare negli Stati Uniti in vacanza, ha fatto richiesta di visto e gli Stati Uniti hanno negato il visto a Limonta. Mistero, o meglio mistero sui motivi. Obama non vuole il pupillo di Pisapia, così titola il Giornale, un'intera pagina, pagina 11, mentre metà pagina sulla Stampa: il consolato gli nega il visto, niente vacanze negli Stati Uniti per il braccio destro di Pisapia. È andato lì a chiedere il visto e gli hanno detto no, è stato negato. E gli hanno chiesto loro, Limonta dice, sono loro che mi hanno chiesto i motivi, dice, lei ha fatto qualcosa. No, io non ho condanne, eccetera. Certo, la mia crescita umana e politica è stata indelebilmente segnata dal golpe, dai vari golpe avvenuti in Sud America, per questo ho più volte criticato in passato la politica statunitense. Che sia questo il motivo del rifiuto? Si chiede Paolo Limonta. E anche il coordinatore per La Stampa del consolato americano Robert Palladino, contattato dalla Stampa, si è limitato a dire: la legge ci vieta di discutere casi personali in materia di visti. Mistero, mistero su questo. Siamo al momento del premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato oggi, lo trovo sul Secolo XIX, un'intera pagina. Emanuele Rossi, il figlio di Grillo supera gli esami e fugge come papà. Questa è la cronaca di un'intera pagina di Rocco Languilla, soprannominato dal Secolo XIX, più bravo di Trota Bossi, Rocco Grillo, che ieri si è presentato alla maturità alla scuola liceo Martin Luther King a Sturla, quartiere bene di Genova, e tutto il racconto di come cercano di incrociarlo, poi lui fugge dalle scale, dice non voglio nessuno, come è legittimo e come per tutti gli studenti che devono fare la maturità, sono tesi, nervosi, e poi passa di lì, esce dalle scuole, chiedono ai bidelli ma dov'è, è uscito, e tutto l'articolo, l'augurio si conclude così, è che possa godersi quest'estate dopo la maturità senza fughe alla chetichella dalla porta di servizio. Ma perché? Ma chi se ne frega del diploma del figlio di Beppe Grillo? Il Secolo XIX, La Carta Costa, mi raccomando, un intero articolo e la vittoria del premio di oggi. Giornale Radio.